Quanti tra voi seguono questa trasmissione da un po' di tempo avranno capito che tra destra e sinistra, par condicio o no, non sono esattamente neutrale e spero proprio che non se ne dolgano. Destra e sinistra non saranno valori assoluti, ma sono categorie che quando si tratta di organizzare i propri giudizi tornano piuttosto comode. E quello di organizzare i propri giudizi, in un mondo in cui sempre più spesso si tende a far confusione per non pagare dazio, è un dovere preciso per tutti. Tuttavia, personalmente temo di non avere molto interesse nemmeno in questo campo per i problemi di legittimità. Non sono mai riuscito ad appassionarmi alla questione se chi sta a sinistra possa o debba leggere autori considerati di destra. Non perché creda come altri che l'eccellenza letteraria debba far agio sulle prese di posizione ideologica, visto che non sono mai riuscito a distinguere l'eccellenza letteraria dalla somma dei valori che ogni autore esprime nei suoi testi, ma perché resto convinto più semplicemente che è difficile che qualcuno sia così completamente imbecille da scrivere solo delle imbecillità. Non sono mai riuscito a sopportare Céline o a capire Heidegger, che sono i tradizionali punti di riferimento per questo genere di dibattiti, ma qualche frequentazione con autori di destra nel mio piccolo confesso di averla avuta. Per esempio, ho sempre letto con grande soddisfazione Agatha Christie e Woodhouse, e non ditemi che questi sono autori che non contano, perché allora ce l'abbiamo davvero. Adesso comunque scopro che il problema si pone anche dal punto di vista opposto. Sull'Espresso della settimana scorsa trovo intervistato un certo Pietrangelo Buttafuoco, che non avevo mai sentito nominare, ma che apprendo essere un intellettuale brillante, dicono loro, nonché direttore dell'Italia Settimanale, il periodico parafascista portato da fama dall'orrendo Marcello Veneziani. E costui, discetto a lungo, interrogato da un non meglio precisato LL, e sulle sue letture preferite, e ne spara di grossissime. Dichiara di essere un infervorato seguace di Sciascia, di leggere avidamente Volponi, ci informa della sua simpatia per Che Guevara, e condivisa d'altronde ci informa da tutti i giovani di destra, e se a Pasolini lui personalmente preferisce Dino Campana, anche perché, dice sempre lui, paradossalmente Pasolini era tra i due più fascista, non ne nega certo l'importanza culturale. E conclude che bisogna superare certi bigottismi e certe chiusure, perché loro Gramsci lo leggevano d'assai prima di Fiuggi, e in fondo l'unico autore dell'altro campo che la destra non potrebbe mai far suo è Gandhi. Gandhi a parte, fa un po' di impressione, l'elogio del Che e di Gramsci sulla bocca di uno che storicamente dovrebbe essere dalla parte dei loro assassini. Ma insomma, anche a destra bisogna pur vivere e far carriera, e anche lì suppongo la capacità di dare un po' scandalo, magari a prezzo della coerenza, può servire allo scopo. Il livello culturale del tipo si svela per quello che è quando si produce in sofismi del tipo Sciascia si posizionava a sinistra però la metteva in discussione, e quindi in fondo erano dei nostri. Ma che ci possiamo fare? Siamo ancora a livello del cicaleccio, del giochino intellettuale, e lasciamolo pure lì. Il guaio è che l'individuo a un certo punto cerca di motivare queste supposte scelte, e non lo fa in nome dell'eccellenza letteraria, figuriamoci, della necessità del dialogo, lui lo fa in nome dell'identità dei valori. Cosa credete che sia la destra, voi? La destra, ci spiega costui, è sempre stata considerata la depositaria babbiona dei buoni sentimenti. Invece, alla cultura della quiete borghese noi anteponiamo la guerriglia rivoluzionaria e la trasgressione. Il nostro unico tabù è il centro, non la sinistra. E per questo tipo di destra Pasolini nel suo vissuto non rappresenta un problema, perché, testuale, elementi scandalosi come l'omosessualità o l'uso delle droghe erano usuali nella tradizione di certo squadrismo, dei legionari, degli arditi. Erano i borghesi a considerarli tabù, ma la cultura di destra non mirava alla salvaguardia dei valori, bensì, come per il futurismo, alla capacità di dialogare con la contemporaneità. Beh, a questo punto mi sembra che siamo tutti autorizzati a incazzarci un pochino. Può darsi che per quell'intellettuale brillante la sinistra non sia un tabù, ma è evidente che non ne ha capito moltissimo. Mi permetterò di spiegargli che noi, Non consideriamo la destra depositaria dei buoni sentimenti, neanche per sogno, la consideriamo depositaria della volontà di imporre, di organizzare e di gestire la sopraffazione e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ed è tutta un'altra cosa, ci creda. E sappiamo benissimo che a certi suoi esponenti è stato concesso il gusto dell'anticonformismo e della trasgressione, della libertà sessuale e dell'uso delle droghe, ma sappiamo anche che gli sono stati concessi alla precisa condizione che simili squisitezze alla gran massa degli esseri umani fossero negate. Perché essendo la destra nata dall'esigenza di assicurare il dominio dei pochi sui molti, l'unico valore che non potrà mai accettare è quello dell'uguaglianza dei diritti, della pari dignità per tutti, che è appunto quello che ci interessa. Vedete, c'è modo e modo di dialogare con la contemporaneità. I Ranger che hanno assassinato il CE, gli squadristi e gli arditi che bruciavano le case del popolo e le cooperative agricole e bastonavano a morte i vari gobetti, avevano scelto un modo molto peculiare per farlo. Loro non erano certo esempi perfetti del buon borghese convenzionale, ma noi sappiamo che erano lo stesso al servizio della borghesia dei suoi interessi di fondo. Esattamente come Pietrangelo Buttafuoco.